9A. Ascolta e trasforma. Finalmente ieri hanno ricevuto le merci che avevano ordinato 2 mesi fa. Finalmente ieri ha ricevuto le merci che aveva ordinato 2 mesi fa. Hanno perso il portachiavi che avevano comprato a New York. Ha perso il portachiavi che aveva comprato a New York. L'anno scorso hanno tradotto in italiano un romanzo che avevano letto in spagnolo. L'anno scorso ha tradotto in italiano un romanzo che aveva letto in spagnolo. Non sono andati alla festa perché nessuno li aveva invitati. Non è andato alla festa perché nessuno lo aveva invitato. I ragazzi hanno messo i maglioni che avevano comprato in montagna. Il ragazzo ha messo il maglione che aveva comprato in montagna. Hanno salutato le ragazze che avevano incontrato l'anno scorso. Ha salutato la ragazza che aveva incontrato l'anno scorso.